cause, di sicuro soprattutto nelle sue drammatiche conseguenze. È un'inchiesta che dovrà dare una ragione alla morte di tanti uomini e altrettante donne partiti per una vacanza e finiti in un incubo. Questa puntata di A Ciascuno il Suo, un po' speciale, dall'Isola del Giglio, per ora finisce qui. Grazie per la preziosa collaborazione in redazione a Guido Scotti. Del disastro della Concordia parliamo anche sul nostro audioblog Storiacce e sulla pagina Facebook Storiacce, nome della nostra vecchia trasmissione. E come sempre vi ricordo che potete riascoltare questa, come tutte le altre puntate, dal sito radio24.it nella sezione podcast. Ciao a tutti, da Raffaella Calandra.